Ricordate, i consumi indicati sono giornalieri. Sommate il fabbisogno quotidiano dei quattro avventurieri, poi moltiplicate il totale per due. Solo così saprete quante provviste vi serviranno per l'intero viaggio.